All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. E ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Applausi, applausi, applausi. È stata una settimana trionfale per la cena, poi ne parleremo in seguito. Intanto mi raccomando, visitate www.bach.it, cliccate la cena dei regini per comunicare con noi, commentare la puntata e seguire anche le puntate precedenti, poterle riascoltare. Siamo anche su YouTube, se tutto va bene, se siamo riusciti a impostare bene le telecamere, non morire uomo della strada. E quindi potete seguirci anche lì. Intanto un angolo musicale di Emerald Park in Utopia. Flowers grow on the pavement, on concrete and through ice, and everyone is honest, no cheating and no lies. The enemies are smiling, they've laid down all their guns, they're drinking for the future, the daughters and their sons. I would do anything for you. You would smile each time you saw me. I would do anything for you in my utopia. In my utopia. In my utopia. Children are all smiling, laughing all the time. The parents never argue when there's no domestic crime. There's light in every alley, the music fills the air, and everyone will belong. Minor songs. I would do anything for you. You would smile each time you saw me. I would do anything for you in my utopia. In my utopia. In my utopia. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Questa settimana abbiamo un ospite particolare. Intanto visitateci su www.bach.it, cliccate la cena dei regini per seguirci, per comunicare con noi, per commentare anche l'ospite che andiamo a presentare a breve. Burbage, un cantatore friulano che da poco ha esordito con un album nuovo di zecca, autoprodotto, 13 pezzi del tutto mirati alla semplicità. A pieni nudi sull'erba è il titolo dell'album, conosciamolo insieme. Ciao Riccardo. Ciao a tutti. Come facciamo qualche domanda per presentarti agli amici da casa? Vuoi iniziare con una sintesi? Chi è Bourbage? Allora, cosa posso dirti? Bourbage nasce da un'idea. Bourbage era un attore shakespeariano. Cioè, da quanto ne sappiamo, Shakespeare forse scriveva proprio per lui le sue opere. E quando lessi di questo personaggio mi affascinò molto. E pensavo che ognuno sente l'urgenza di esprimere un qualcosa, un'arte che ha in sé, e volevo poi identificarmi con questo Bourbage, che si chiamava Richard Bourbage. E quindi, quando cominciai a scrivere delle mie cose, usai questa sorta di pseudonimo, e quando dovevo decidere che nome dare avere un nome d'arte, quando ho scritto musica ho pensato fosse naturale, ecco, continuare a usare questo nome, un po' per esprimere il fatto di tirar fuori l'arte da sé, ecco. Quando ho cominciato a suonare e scrivere ho detto, beh, posso dar voce finalmente a qualcuno che è dentro di me, che non sono per forza io, ma è una parte di me, che è la parte di me che esprime l'arte. Quindi questa parte ha preso il nome di Bourbage. Il personaggio che dà il nome a un progetto che diventa assolutamente reale con questo primo tuo lavoro. Sì, esatto, come l'ho concretizzato, adesso ha sembianze umane. Come nasce il progetto artistico e qual è l'idea scatenante? Cioè, se c'è stato un momento in cui hai detto facciamo quest'album, realizziamolo, qual è stata la... Non so per dirti quale sia stata la scintilla. In realtà ho sempre scritto musica, ho sempre suonato in tanti gruppi, principalmente io suonavo il basso, ho suonato in gruppi ska, alternative, grunge, hard rock, ho voluto sperimentare più influenze possibili, ecco, non precludermi nulla. E, sicuramente ho continuato sempre a scrivere per i fatti miei, con la chitarra, delle canzoni, che però non facevo ascoltare a nessuno, era una cosa un po' mia, un po' privata, personale. E c'è stato sicuramente uno strappo in un momento quest'anno in cui mi sono detto che dovevo provare, non so, a fare un disco, a fare una cosa che restasse comunque mia, però che avesse una forma distinta, che avesse la sembianza di un disco. E così mi sono messo questa primavera, e avevo del tempo libero, quindi mi sono messo nella taverna dietro casa mia, e sono in campagna, ho lasciato che la primavera mi contagiasse, mi ispirasse. Perché ed è nato questo disco. Bellissimo, perché il disco è totalmente autoprodotto, l'hai reso disponibile sul web gratuitamente. Intanto possiamo dare anche un riferimento a chi ci ascolta per poter trovare il disco? Vuoi segnalare un sito, un qualcosa da cercare su Google? Sicuramente ormai tutti siamo attrezzati con social network, la pagina Facebook, di Bourbage, scritto Bourbage, e c'è un comodissimo link nelle informazioni. Perfetto. Per scaricare il disco gratuitamente. Perfetto. E in questa il lavoro è autoprodotto, quante persone e quanto tempo è dedicata a questa fase di elaborazione, diciamo, dall'idea grezza al lavoro finito? Quanto ci hai impiegato? Dunque, ho cominciato a registrare a inizio maggio. E le registrazioni sono protratte all'incirca fino a fine giugno, quindi ho avuto 2 mesi di gestazione. È un lavoro che ho gestito in solitudine, in pratica, perché essendo anche povero di strumentazione, ci sono solo chitarre acustiche, c'è la voce, è un lavoro che ho gestito da solo, quindi essenzialmente sono l'unico artefice della cosa. E basta, quella era la sua domanda. Tutto un one man band quasi. Io quando ho sentito sto ragazzo al telefono, gli ho detto, ho sentito il suo CD e gli ho detto, il tuo CD mi ricorda un libro di Pennac, per la semplicità, la cosa, addirittura lui ci confermerà, le grafiche dell'album sono fatte a penna, è un lavoro molto, proprio per dare quell'idea di semplicità, di contatto. Sì, questo è stato grazie anche a un amico che appunto, grazie che mi dai l'occasione, voglio citare, è un ragazzo che canta in un gruppo punk di Pordenone che si chiamano Potsdam, fa locandine, disegna per i fatti suoi, avendo visto dei suoi lavori l'ho voluto coinvolgere nella grafica del disco perché pensavo potesse cogliere in maniera genuina e con il suo stile molto appunto semplice lo spirito del disco, come infatti è successo. Questi piedi nudi, perfetti. Cioè, ha disegnato i piedi nudi molto stilizzati, molto carini. Ma per Riccardo Bourbage, Riccardo, il valore della semplicità si può vivere ancora a piedi nudi oppure anche per la tua esperienza di uomo, diciamo, prima di artista. È quello che stai sperimentando? No, non voglio essere troppo naif, però penso che ci sia una buona possibilità, sì, si possa ancora vivere in questa maniera. E penso semplicemente al mio piccolo lavoro qui, che è stato fatto, cioè ho voluto chiamarlo così anche perché un po' rappresentava bene lo spirito della campagna che mi circondava, della natura, c'è un panismo di fondo in tutto il lavoro, c'è il cinguettio degli uccelli, ci sono i trattori che passano. E semplicemente per andare a registrare passavo, per andare alla mia taverna passavo a piedi nudi per il prato e pensavo che effettivamente fosse giusto farlo così perché non c'era tramite né tra me e il lavoro che stavo facendo, perché stavo esprimendo qualcosa di mio, del tutto apertamente, liberamente, e non c'era un tramite neanche con me la terra che mi circondava, la mia campagna, il mio territorio, perché appunto ero scalzo. Quindi questa semplicità, secondo me, è auspicabile proprio nella vita. Ma al di là della semplicità, in questo tu da artista giovane, giovanissimo, ti affacci adesso a questo lavoro, con questo lavoro discografico, in un mondo che è abbastanza in subbuglio, perché comunque il mondo discografico è vessato da situazioni commerciali molto, molto coordinate, diciamo così, la crisi che comunque prende anche questo campo. Nel tuo progetto hai pensato anche a un autofinanziamento, hai pensato a uno strumento che può comunque darti, oltre al ritorno emotivo di presentare il tuo disco, anche un ritorno economico che ti ripagasse delle spese di realizzazione, oppure è un discorso che vuoi lasciare? È un discorso che devo ancora affrontare, più che altro, perché quando ho deciso di affrontare questo piccolo progetto non pensavo a fini commerciali, quindi la cosa era nata perché rimanesse un po' tra me, poi ho deciso di condividerlo e in parte sta funzionando qualcosa, o sto ricevendo dei buoni feedback, ecco. E devo ancora stamparli perché lo farò a breve, però penso che li venderò a un prezzo proprio simbolico, una cosa anche per essere un po' coerente con quello che ho fatto, del tutto a zero costi, chiaro, in pratica, chiaro, tutto senza dispendio, senza coinvolgere persone, usando solo il mio tempo, quindi non penso per ora a questo tipo di finalità. Chiaramente se ci sarà un ritorno sarà qui live, cominceremo forse a breve a spostarci, a portare questo tipo di prodotto, anche se è brutto chiamarlo così, appunto, però diamogli un po' il valore di merce anche alla poesia, alla musica, okay. E in giro, e quindi sì, forse ci sarà un ritorno, però è un aspetto che per ora non segue, non curo, ecco, mi è bastato farlo e questa è la cosa più importante. Hai già delle date da segnalare? Hai già piazzato delle date? Ne vuoi parlare? No, ci stiamo lavorando, no? Non ci sono ancora. Sì, però dalla pagina Facebook poi sarà tutto consultabile, probabilmente partiremo quest'inverno. Chiaro. Tu sai che ogni artista, abbiamo chi lavora anche con l'arte, una solitamente la folgorazione, cioè ascoltare quel pezzo e dire cacchio, lo potevo registrare io, e invece, cioè hai avuto anche tu questa folgorazione, hai avuto un pezzo che avresti voluto scrivere tu, un pezzo che ti ha colpito? Guarda, di canzoni che avrei voluto scrivere ce ne sono una miriade, veramente sarebbe difficilissimo citarle tutte. Potrei sicuramente dirti che la traccia iniziale di You Are Living All Over Me dei Dinosaur Jr., Little Free Things, uno dei miei pezzi sicuramente preferiti, come scrittura a compattezza proprio. E ti citerei sicuramente il Syd Barrett solista, Phil. Sì. E potrebbe essere un pezzo di Buckley come Lover, You Should Have Come Over. Fantastico, quindi questo è abbastanza classico. Sì, ok, questi sono più classici. Anche qualcosa di Bowie, sicuramente B-Ray Brothers, credo tra le tracce finali di Yankee Dory. Sono quei pezzi proprio che più completi, in cui veramente trovo riassunto tanto. Fantastico. Si avvicinano più alla perfezione di brano che ho in mente. Abbiamo passato questi 10 minuti in compagnia di Riccardo Burbage. Un ultimo saluto, vuoi dare un messaggio agli ascoltatori della Cena dei Reggini, qualcosa di tuo, un messaggio? Beh, intanto vi ringrazio per l'invito, ascoltate la Cena dei Reggini, ascoltate e scaricate tanta musica. Ecco, sì. Basta. Grande Riccardo. E adesso ci ascoltiamo un pezzo che è quello che apre il tuo album. Ed è la prossima volta che ci vediamo, Burbage. Un saluto a Riccardo. Perfetto. Ragazzi, un applauso. Ciao, grazie. Devo sottolineare la poesia di questo ragazzo che a casa sua registra un disco, lo condivide, è bellissimo. La prossima volta ci vediamo, Burbage. E ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Se avete visitato www.tibac.it, sì. Avete cliccato la cena dei regini? Sì. Ma rifatelo, rifatelo, perché sicuramente avete qualcosa da comunicare e potete farlo a cena@tibac.it, commentare la trasmissione, ma soprattutto proporvi come ospiti della cena dei regini. I prossimi commensali potresti essere voi. E quindi raccontare la vostra storia di vita, quello che volete raccontare qui, perché la energia migliore della città passa dalla nostra tavola. Ragazzi, questa settimana ci aspettano grandi cose, settimana trionfale per la cena, molto, molto seguita, ma soprattutto la settimana in cui iniziano le demolizioni a Laos per farne la versione 2.0, quindi iniziamo a demolire tutto, a parte l'unica finestra che resterà della struttura precedente, e la rifaremo da zero. E poi continuiamo la produzione dei nostri corti cinematografici. Ne stiamo registrando uno che manca ancora qualche ripresuccia, e ci siamo, coinvolgeremo anche i ragazzi. E poi ritorneremo con la struttura completa a fine mese e faremo una bella inaugurazione, una bella cena, perché non siamo già abbastanza sazi di queste cose, e via dicendo. Ragazzi, adesso continuateci a seguire su www.back.it, mandiamo uno spazio musicale, In Isolation, The Wrong Girl. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini, cena@back.it, se avete qualcosa da commentare su questa puntata, se volete intervenire anche sull'argomento che andiamo a presentare adesso. Questa è la nostra rubrica che ho chiamato About Reggio, dove proponiamo quello che di particolare avviene in città. Questa settimana abbiamo ospite con noi Filippo Sorgonà, che ci parla della petizione Io non pago i debiti del Comune di Reggio, che ha promosso online. Ciao Filippo. È assolutamente vero, grazie per lo spazio. Innanzitutto tu inizi da un percorso professionale che è quello comunque di organizzatore degli eventi, ma cos'è l'iniziativa che hai lanciato e a chi è rivolta? Ma ecco, a proposito di eventi, dovrebbe, spero divenga un evento di fatto, e in brevissimo tempo diciamo che lo è divenuto, perché in 2 giorni siamo riusciti a totalizzare oltre 2000 firme, oltre 2200 firme, per una questione che credo riguardi la quotidianità e le tasche di ogni cittadino reggino. Fondamentalmente si tratta della ribellione all'idea di pagare il deficit accumulato, la voragine accumulata dagli ex amministratori del Comune di Reggio, che abbiamo quantificato, che è inquantificabile ancora, perché io credo che Margherita H. avrebbe potuto effettuare uno studio serio su questo buco nero economico, voglio dire. E lei ci ha lasciato, rimane il buco nero, quindi oggi abbiamo appreso la notizia del premio Nobel, vediamo se dopo il bosone riusciranno a quantificare il buco, esattamente la voragine di Reggio Calabria. L'idea di base è che ci siamo ritrovati con dei tributi, soprattutto TARES, quindi tassa sui rifiuti, e canone acqua raddoppiati, perché su queste tasse sono state diciamo sommate, voglio dire, le quote di questo deficit, che è una cosa assolutamente illegittima, se non illegale addirittura, perché la legge, soprattutto sulla TARES, prevede per esempio che tu possa coprire il 100% del servizio della raccolta dei rifiuti e che tu possa accorpare uno 0,30/0,40% di altri servizi cosiddetti indivisibili, che è un concetto molto di bilancio. Il piano comunale sarebbe tutto il buco. Il piano di rientro comunale dei commissari segue l'ottica dei ragionieri, voglio dire, di una contabilità fredda che non tiene conto praticamente delle esigenze della città e soprattutto delle tasche delle persone, perché Reggio, che già vive una condizione di precarietà storica e atavica e in questo momento di crisi nazionale soffre ancora di più, in questo momento si ritrova addirittura a dover far fronte a una spesa praticamente che dovrebbe andare a coprire quei soldi spesi, dobbiamo dirlo effettivamente, per il successo politico-amministrativo di alcune persone di cui non voglio neppure fare nomi perché provo vergogna veramente. Quindi c'è questo buco, c'è questa situazione, e la tua idea, cioè la tua petizione, propone di prendere dai beni. Ma questa è un'idea, non è una mia idea, in realtà è una legge, ovvero la Corte dei Conti, nel momento in cui dovesse accertare le responsabilità dirette di un amministratore, è legittimata a prelevare, quindi a recuperare queste somme direttamente dal patrimonio della responsabile. Qualcosa mi sembra una cosa di assoluto buonsenso. Nel frattempo non dobbiamo anticipare noi questa somma, mi pare ovvio, perché la voragine, diciamo, del Comune di Reggio Calabria, che è stata creata a suon di feste, festini, fuochi d'artificio e passeggiate sul corso dello staff di Lele Mora a 20.000 euro a passeggiata, è una cosa che veramente va a colpire l'intelligenza e a mortificare veramente il buon senso di un buon padre di famiglia. Quindi adesso che ci si ritrova a non poter coprire economicamente i servizi più elementari, quali i trasporti, i vigili urbani che non hanno veramente non hanno neppure il ricambio per le divise, ecco, questo è drammatico per una comunità per intero. Al contempo noi chiediamo che vengano recuperati in altri modi, e ho delle proposte in questo senso, perché protestare senza proporre infatti. Ovviamente delle idee. Di questa voragine incredibile possiamo definire gli artefici, quindi con esattezza. Cioè, dici, abbiamo questa strumenti... voragine, questa voragine è stata creata esattamente nel corso delle due amministrazioni Scopelliti, soprattutto nella è stata più accentuata soprattutto nel secondo quinquennio, diciamo. E si deve ricordare d'altronde che l'ultimo il consiglio comunale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose, quindi non stiamo parlando di società miste da Leoni a multiservizi e moltissimi altri settori, inclusi funzionari, voglio dire, della pubblica amministrazione, totalmente voglio dire colluse con buoni settori della malavita cittadina. Quindi questa è una cosa un po' gravissima. Questa petizione che ha avuto un buon riscontro in termini di partecipazione, che... E io lo moltiplicherei almeno per tre, perché bisogna pensare che spesso dietro a un contatto internet ci sta dietro una famiglia. Faccio un esempio, voglio dire, io ho proposto la petizione, i miei genitori non hanno un account Facebook o un'email, però mi hanno pregato, dice firma anche per noi, non si poteva, però voglio dire, ci sono moltissime altre adesioni dietro un click, non bisogna sottovalutare, perché la gente comunque è, oltre che scoraggiata, anche abbastanza impaurita da una crisi, è disarmata. Diciamo anche intanto per chi ci ascolta, e magari ci sono persone anche che vivono all'estero o comunque fuori Reggio, un riferimento per poter accedere, intanto per poter guardare questa petizione, per poterla trovare, basta cercare www.avaaz.org. Io non pago i debiti del comune di Reggio. Esatto. Io non pago i debiti del comune di Reggio e viene fuori questa petizione. È accessibile anche a chi vive fuori Reggio, fuori Italia? Vogliamo dare... È accessibile a chiunque, nel senso che chiunque può aderire. Fondamentalmente le petizioni online hanno una caratterizzazione, da un punto di un inquadramento, diciamo, di carattere giuridico-legale. Teoricamente non avrebbero validità nella misura in cui le firme non fossero validabili. E questo è un punto sottile, perché al di là del fatto che comunque sia, voglio dire, è un dato oggettivo l'adesione di migliaia di persone a una causa, quindi comunque è un atto forte di opinione pubblica. Certo, da un punto di vista di regolamento, per esempio in un comune, nel comune di Reggio Calabria, per esempio, tu presenti una petizione con 500-800 firme. Di solito obblighi il Consiglio Comunale a mettere all'ordine del giorno, diciamo, questo argomento. Io credo che, a parte che ormai oggi, voglio dire, a un account Facebook corrisponde quasi certamente un'identità. Questo può essere verificato con polizia postale, è tutto un sistema incrociato, voglio dire, di verifiche, voglio dire, no? E comunque sia... che oltre 2.000 persone sostengano una causa, indipendentemente dalla validità, voglio dire, dalla procedura burocratica, cioè oggettivamente io credo che sia un atto forte della società civile, quindi invita oggettivamente gli amministratori a pensare e riflettere su questi provvedimenti. Nel testo della petizione tu definisci Reggio città inesistente. Eppure comunque i fasti storici di Reggio sono gloriosi. Secondo te, anche nella tua ottica professionale, cosa abbiamo perso per la strada e cosa dobbiamo recuperare? Cioè, parlo del Regino, uomo della strada, nel senso del Regino comune, del Regino che ci ascolta, del Regino... La Reggio inesistente a cui faccio riferimento è la Reggio della propaganda che ci hanno propinato, quindi, no? È il modello Reggio, la città metropolitana, la città turistica, gli alberghi che non abbiamo mai visto sulla via Marina, la periferia che è rimasta peggio di prima, la spazzatura che ci è arrivata fino a dentro casa, è salita 2-3 metri. Questa è un'opera di squallidissima propaganda che, per chi lavora nel campo della comunicazione, tu ne sai qualcosa, è una facile operazione se hai le finanze per poterlo fare, voglio dire. E purtroppo storicamente le grandi dittature, i grandi totalitarismi e oggi i totalitarismi dolci, le democrazie virtuali nel senso peggiore del termine, sono proprio strutturate su opere di comunicazione, su una fiction, su una rappresentazione. Quindi la Reggio inesistente è la rappresentazione di una Reggio che di fatto non è mai esistita, sulla quale però hanno fatto fortuna degli amministratori. La Reggio che invece intendo personalmente, da cittadino di Reggio, recuperare è una Reggio che è collegata alla sua tradizione, alla sua storia, al suo territorio, che recupera essenzialità e senso di identità, senso di appartenenza. Noi abbiamo proposto sempre dei modelli, cioè noi abbiamo costruito un palazzo di giustizia, una facoltà di architettura, un palazzo della regione, che sono da Milano 3, sono le corburesiane. Cioè, di giustizia ancora. siamo in una città a vocazione mediterranea, è incomprensibile. Sono molto più graziosi i piccoli centri siciliani o della Grecia, cos'è, bianchi, semplicissimi, banalissimi, ma che quantomeno rispecchiano un'identità con il territorio, un'identità territoriale. Quindi l'idea di recuperare questo senso di collegamento alle cose è importantissima, perché in questo momento Reggio è una città schizofrenica a tutti gli effetti. Quindi la leva di rinascita per Reggio è keep calm and be Reggino. Mantieni la calma. Reggino sì, Reggitano no. Reggitano no, ovviamente. Ragazzi, ritorniamo. Io non pago i debiti del Comune di Reggio. Abbiamo avuto con noi qui il posorgonale, intervento di Nino Spezzano. Un applauso a questa iniziativa. Che... Grazie. Voi hai visto mai che porterò qualcosa di importante. Ragazzi, adesso riascoltiamo il nostro ospite di questa sera, Bourbage, con Litania in E maggiore. Thank you. Ragazzi, bentornati alla cena dei Reggini, www.tbac.it, cliccate la cena dei Reggini, contattateci se una puntata abbastanza intensa, comunicativa, quindi tante cose da dire. Adesso procediamo con il nostro angolo classico della classifica, appunto, le 50 cose che non sapevi, ma noi facciamo 25. La versione ridotta. Numero 25. Le lumache possono dormire per 3 anni. Vero? Wow. Sono una lumaca. Ma ragazzi, cosa ho sentito? Cosa? Chi c'è qua con noi? Ah, ecco. Un grande ritorno. L'uomo della strada è tornato. L'uomo della strada è tornato. Grazie. L'uomo della strada è qui. No, questi erano gli effetti speciali. È tornato dopo una vacanza nel nord Europa, dove ha portato il suo verbo comunque, perché da Regino Medio si è andato là. Verbo essere. E mi è andata pure bene perché c'era solo il verbo essere. L'uomo della strada. Le lumache possono dormire 3 anni. Sì. In teoria la lumaca è molto viscida, lo sappiamo tutti, la bava di lumaca serve per la bellezza. No, giro a mia moglie per dire, perché è lei che sa questa cosa qua della lumaca, babucchiosa. E contengono molta acqua, sono molto acquose. Quando vanno in letargo, così chiamato, si chiudono dentro il loro bozzoletto, si tappano e attraverso quel bozzoletto iniziano a perdere molto lentamente l'acqua. Ma è meglio per un periodo, è meglio un giorno da leone o 3 anni da lumaca? Dipende dove vivi. No comment. L'ho fregato. Penso che sarà meglio il leone, perché la lumaca a 3 anni, poi quando esce in carta pecorita, non è che sia è un po' impegnata, immobilizzata e essiccata. E se sono lumache di mare, che succede? Andranno alla deriva e si perderanno. E se sei in Francia? Non andranno mai. Finirà in se un in piatto. Se in Francia non durano 3 anni. L'escargot fa una brutta fine. Ma soprattutto io non sapevo che le lumache potessero durare fino a 3 anni. Non sapevo che potessero durare 2 giorni. E infatti la classifica è le cose che non sai. Posso dire una cosa? Certo, Andrea. Mio padre soffriva di gastrite. Ecco, questo è buono. È angolato una lumaca intera viva. Ok. E ci è passato tutto. In via definitiva, cioè la lumaca aveva lo sportellino nella chiocciola, no, con tutte le medicine. Confondiamo la lumaca con la chiocciola. La lumaca è senza sportellino, la chiocciola è con la casetta. Ma alla cassettina, no, della motina, quella che ti porti in tasca. No, in antichità libera un liquido. Libera un liquido che è guarito, Vabbè, già, ragazzi, passiamo alla 24esima posizione. Già abbiamo capito perché ne facciamo solo 25, perché altrimenti faccio dei Reggini e a colazione dei Reggini. Io prima o poi dovrò andare a dormire e mi libererò di voi. Bene. 24. Un episodio di Simpson richiede 6 mesi di lavoro. Grazie a Dio, 6 mesi di lavoro. 6 mesi, cioè, io le uscite americane sono una alla settimana. Sapere che avranno lavorato. Sapere che un editore ci ha messo 6 mesi fa molto peggiore. Fa capire quanto lavoro c'è effettivamente dietro. Perché... Ah, no, ma tu devi pensare che ci mettono 6 mesi per un episodio, ma non è che fanno quelle e basta. Ma c'è una questione vero o falso, è un dato di fatto. No, è un dato di fatto. Comunque ripeto, grazie a Dio che la fanno uno, ogni prima o poi finiranno. Quindi... Non credo. No, ma sono già la ventesima. No, 25. 25. Cos'è contro i Simpson? Però c'era adesso la rivoluzione all'interno del. No, io so che forse morirà qualcuno di Simpson. All'interno della ragazzi all'interno della sarebbe proprio da tirarlo fuori all'interno della storia ci sarà una rivoluzione che dovrebbe rilanciare un attimo il brand, legata anche al fatto che alcuni dei doppiatori erano usciti dal progetto. È antieducativo perché dicono cose poco carine, sono molto cattivi con il ceto medio delle persone. Maltrattano in maniera spaventosa le classi meno abbiette, cioè Sarei no, di peggio. Io sai cosa dico sempre? Di South Park? South Park è proprio terribile. South Park è proprio da metterlo. Io in generale di questi cartoni animati, cioè, felice che magari la gente piacciono parecchio, però io dico una cosa, quando ero ragazzino io, avevamo il mito di Sandokan. Principe, pirata che lottava contro le differenze sociali e via dicendo, eccetera. Sti ragazzini crescono, ho visto di Homer Simpson, impiegato che non fa niente, famiglia assolutamente media che vivacchia nella società americana. Qua c'è da riflettere. Beh, sono due cartoni con significati diversi, secondo me, perché Sandokan comunque è un cartone che. Cioè, wow, che figata, Sandokan, mi diverto un sacco. Invece di Simpson cerca di denunciare una realtà. No, ma che è la realtà del cittadino medio americano. L'idea. Esasperandola, certo. Esasperandola la denuncia. Avevano anche un significato. Ma dipende a quale vedi e quale no. Perché i Simpson sono semplicemente pura animazione. Non c'è veramente qualcosa dietro. Altri cartoni animati, giapponesi oppure occidentali, hanno un loro insegnamento, una loro morale. Mentre ci sono quelli che sono Simpson, i Griffin, American Dad. Ma quando tempo addietro, quando ancora questi non uscivano, c'erano i nonni, anche nei film che facevano, non erano pure divertimento, c'era anche una morale. Che comunque faceva, cioè lasciava un qualcosa dopo. Però qui invece è un divertimento momentaneo e poi ma finisce di è più che altro una cosa di mercato. Cioè tu vai a vendere un prodotto che fa divertire, di conseguenza venderà più di un prodotto che cerca di insegnare. Sì, ma però non viene venduto. Eh sì, per secondo gli americani, cioè alla fine non è proprio una merce materiale, ma è popolarità, è persone che ascoltano, persone che vedono la dovere. Fare le magliette, però normalmente non viene venduto. Beh, tu vedi, se tu vedi più il programma fa tutto un ritorno d'immagine. Sì, comunque ragazzi, i Simpson già vedo che vi hanno belli caricati. Io direi una cosa, posizione 24. Di non provare verso 10 inizierei a sospirare. No, ora ci arriviamo. Meglio una qualunque puntata dei Simpson che uno dei cartoni che fanno ultimamente su praticamente Cartoon Network. Adventure Time. Ma Adventure Time a me è simpatico. Ma se cercano sempre di buttare via il vecchietto in mezzo alla strada, buttarselo, mandarlo nell'obitorio, cercarlo da toppare, cioè ma dai. Questi pazzi americani, ma invece la numero 23, un buon insegnamento, Leonardo da Vinci era in grado di scrivere con la mano destra mentre disegnava con la sinistra. Pure io. Primo esempio di multitasking. In questo, sinceramente, tanto di cappello, come dice giustamente Filippo, perché davvero l'uomo è capace di ascoltare in contemporanea 5.000 voci e di selezionarne una sola, ma farne due in contemporanea non è riuscito mai a farlo. Penso che tra l'altro i disegni di Leonardo non erano neanche tanto male. È quasi divinità, è una linea di confine. Passiamo da un idolo dei vecchi tempi tra virgolette a un idolo dell'era moderna, Lady Gaga, ragazzi. Lady Gaga. E quando è diventato un idolo, ho perso qualche pezzo di storia. Lady Gaga ha scritto Born This Way in 10 minuti. Che non so quale sia la canzone Born This Way. Non cantatela perché non si può. Sinceramente, non c'è niente di spettacolare. Vive le note delle sue canzoni che ci può far crescere. Sì, l'ha scritta in 10 minuti perché è da dimenticare. Sinceramente, io scrivo canzoni, ne ho scritte 30, ognuna non ci ho messo più di 10-15 minuti. Hai visto? Però non sei Lady Gaga. E quindi posso imparare. Ho fatto una demo di un minuto e mezzo in 10 minuti. Questo ci sono riuscito, dai. Grande. Su. E adesso puoi allenarti in un altro esperimento di carattere di natura, diciamo anatomia. Se tocchi la lingua mentre sbadigli, fermerai lo sbadiglio sempre. È perché vero. Dovresti fermare uno sbadiglio? Non si sa. E ti dirò di più: se invece di toccarla ci metti solo il dito dentro, ti dà una noia. Io lo faccio sempre al gatto. È vero, mamma. Che è il gatto? Perché il gatto? Perché c'è una bellissima canzone proprio. Si chiama Cose da non fare al gatto, di musica per bambini. Vi invito a sentirla, poi la sentiamo assieme perché è strepitoso. Dovrebbe rientrare anche questo. Ragazzi, al numero 20, per la legge delle grandi probabilità, la madre di Hitler voleva abortire, ma il dottore la dissuase. Dottore di morto! Ma perché? Pensa tu, le cose che potevano non accadere. Quindi per la decisione di un singolo uomo, una singola donna, in questo più l'uomo, perché l'uomo che ha detto di non abortire, abbiamo, il mondo ha sofferto per anni. Ringraziamo i parenti, tutti. Pur sembrando una cosa brutta, tutto coopera bene con quelli che sperano nel Signore. E allora andiamo avanti. Giustamente. Andiamo avanti. Forse numero le persone 19 sono diventate un po' più sensibili per alcuni temi. Ma chi lo sa? Per altri restano assolutamente superficiali, in quanto Harry Potter è stato tradotto in 65 lingue, compreso il greco antico. Io voglio sfidare qualcuno a leggere tutti e 7 libri in greco antico. Un attimo, però sulla costa ionica vogliamo scommettere. Si parla greco antico. Vogliamo scommettere che lo faranno tradurre italiano greco al coso, al classico. Sarà uno dei libri. Vedremo Harry Potter narrativa al classico tradotto. Vedremo Harry Potter tradotto in calabrese esperto. Sì. No, potevamo arriva Iatro. Un mio amico praticamente. Che è greco, tra cioè, virgolette, potevamo. Dica. Allora. Un mio compagno praticamente ha detto di aver cercato di tradurre, ha tradotto tipo 5 capitoli dei Promessi Sposi in calabrese. Stretto. Grande. Ma esiste la Divina Commedia. E io ho conosciuto chi la tradusse. Giurzo, il professore Giurzo. Sono andato nel suo studio e lui ha tradotto la Divina Commedia in calabrese antico, perché comunque sono cose. Pensavo Patrizio Giurzo, che avrebbe dimostrato di più. No. No. Alla numero 18. Bianco. È impossibile su Windows chiamare una cartella con. No, con. Ho provato, non si può con. Fare. Con. Non si può chiamare una cartella con. Perché? Sai perché? No. Perché la cartella di sistema perché si chiama con. I con sono i collegamenti alle periferiche. Fantastico. Con 1, con 2, con 3, con 4 sono delle periferiche, non le puoi usare. Che poi col sistema di Windows non è che sarebbe. Sono le periferiche, quelle seriali. Tipo serial 1, serial 2, serial 3, sono le con. Fantastico. Quindi Windows. Okay. Ah, boh, Windows ho scritto io, quindi io so dire. Sei qui con noi. 17. Il nostro avambraccio è lungo come il nostro piede. Ma sembra avambraccio? No. È impossibile. Guarda. No. Ah, l'avambraccio è questo? L'avambraccio. No, non è possibile. Non ci crediamo. Non ci credo. No, allora, aspettate. Non lo so. Questa è la zona polso. Questa è la zona gomito, quindi l'avambraccio è questo. Non quasi, però quasi. Potrebbe essere quasi. Mi dispiace, con tutto rispetto, che tengo 42. Guarda. Questo lo passerei, sto pezzo qua. No, solo questa parte. No, perché questo è tutto come. So di certo che le nonne si misuravano i calzini. Oh mio Dio. Con il doppio del polso, con il cerchio del polso. Sì. Tu prendevi la mano, facevi così. Tanto falso non è. No. Guarda, prendevi il calzino, lo giravi così. Ma te l'hai il piede. È verità, è pura verità, silenzio. È quasi sono più lungo. Io sapevo che se prendevi la mano, la prendevi a pugno e ci giravi intorno, questa era la lunghezza del piede. Sì. Perché erano i calzini che prendevano questa misura. Questo lo so, ma... Vedi, siamo tutti proporzionali, ma soprattutto un'altra grande verità è che se dici a... un gruppo di persone che il suo piede è lungo quanto una lambra, ci metteranno a fare misura per cercare di misurare. Oppure noi... chi vuole fare un regalo a sorpresa, non si vuole dire, invece di chiedere il numero si misura l'avambraccio. Cioè, come stai? Misurati l'avambraccio. Che stai facendo con quel metro vicino a me? No, come stai? Interessante. Bellissimo. Come quando dice la gente, insomma, abbiamo capito cosa fanno normalmente le persone nella vita. Numero 16. Servono 1 milione di cervelli umani per memorizzare tutte le informazioni presenti su internet. 1 milione anche buoni, perché anche la qualità del cervello. Se erano i miei, ne servono 50 miliardi. Anche la qualità deve essere. Non mi ricordo bene. Prendiamolo per buona. Ma questa può anche essere. Numero 15. Gli squali sono immuni a qualsiasi malattia. Buono, che te lo dici? Quasi. Il cimurro lo prendono. Uno studio scientifico ha dimostrato che possono prendere il cancro. Davvero? Sì, infatti tutta la cosa della cellula stamina che hai di squali non era una buffa alla fine. Una cosa... Ma prendere malattia è diverso tra il cancro, perché la malattia è una cosa che viene da, dall'interno. Okay, il cancro cos'è? No, lei dice no, il cancro essendo una mutazione genetica. Una mutazione è non è una cosa che assumi, non è una cosa che viene dall'esterno. Comunque, se tu induci a entrare dentro un corpo un cancro attraverso delle sostanze chimiche, quindi fai una disfunzione genetica a livello genetico delle cellule, lo fai su qualsiasi cosa. Una malattia non può entrare perché o il DNA è, diciamo, riesce a bloccare il virus, oppure riesce a bloccare la cosa, come si chiama, i batteri. Quindi può darsi che sia uno di questi due. Ma se questo non lo possiamo scoprire perché nessuno di noi è uno squalo, in amicizia con questa... Comprerò uno squalo. C'è una cosa che sicuramente è intervistiamo uno squalo. È la prossima puntata. Ma guarda. Certo. Uno squalo con raffreddore. Il numero, il collegamento Facebook. Su Skype. Se... Ragazzi, numero 14, contenetevi perché adesso è una notizia sicuramente vera. Se cercate su Google con le immagini un numero particolare, troverete solo foto di gente che mette la testa nel frigo. Adesso Andrea ci leggerà il numero, che è questo qua. Vai Andrea. 241-543-903. Che ci voleva, che ci voleva, voglio dire. Cercate, perché non l'hai fatto tu, Bac? Cercate questa, perché ti devo coinvolgere, ragazzi mia. E fammi controllare, vediamo. Cercate, è vero no, così. No, è vero. Gente con la testa... È vero. La dico... prossima volta che mi servono foto di gente con la testa nel frigo, cercherò questo numero. Cosa ci fai con le foto? I fetish. Andrea, se stai dentro il frigo, come mai? Meraviglia! No. Riportato nello sgabuzzino adesso e andiamo avanti con... numero 13, le stelle marine non hanno il cervello come la maggior parte quindi, degli animali vertebrati. Quindi Andrea sei Patrick di SpongeBob. Andiamo avanti. No, perdonami, SpongeBob è la spugna. Sei Patrick di SpongeBob. Ma ragazzi, numero 12, quando l'apparenza inganna, la carta di riso non contiene riso. Come questo sì. La carta di riso non contiene riso. Davvero. È incredibile. È croccante, ma non lo diresti mai. Non è croccante. Numero 11, il creatore dei Griffin, a causa di un ritardo, non è potuto imbarcarsi su uno degli aerei dell'11 settembre. Che culo. E quindi da qui, grazie a questo, sono arrivati a noi dei preziosi cartoni animati. Numero 10, il peso di tutte le formiche sulla terra è pari al peso di tutte le persone sulla terra, quindi pari peso tra persone e formiche. Perché le formiche sono miliardi? No, perdonatemi, non è così. Ho sterminato una colonia di formiche a casa mia, pesiamo un pochettino di più noi, te lo garantisco. Quindi adesso dobbiamo uccidere tipo una causa, tipo Andrea. Ce lo passiamo. Vedo che la decisione è stata mettiamo in ordine l'equilibrio dell'universo. Ora comincio a fare Big Squill e vi rovino tutto quanto. Andiamo avanti, ci sono più dispositivi connessi ad internet che persone sulla Terra. E qua ancora anche se conti che ogni persona ha almeno due cellulari. No, io ne ho tre, figurati. Beh, a me Andrea è collegato con il tablet su internet. C'è il tablet, c'è il cellulare, il computer. C'è una serie di infrastrutture server, diciamo che ovviamente. Specialmente server. Fa numero. Al numero 8, l'insalata del McDonald's è più grassa dell'hamburger. Perché tu vai al McDonald's a beccarti l'insalatina dicendo oggi resto leggero, invece ti becchi. Ma questo è incomprensibile. Il carboidrato. No, aspetta, perché il condimento. Il condimento, il caesar è fatto con il formaggio, quindi è... Grazie. Poi c'è la salsa calda. Poi c'è la cotoletta di pollo dentro, no? Dentro l'insalata. Poi c'è l'olio. Beh, poi che in realtà è l'olio dell'olio dell'olio. No, l'olio è contemplato in insalata. Però è proprio quella salsa lì che ti danno, che è proprio piena di grasso. Un maionese anche. C'è maionese, c'è. E ragazzi, in questi tempi di crisi, il numero 7 è più probabilità di morire andando a comprare un biglietto della lotteria che di vincere alla lotteria comprando quel biglietto. Ma va, non andate a comprare i biglietti. Ma chi ce l'ha i soldi per la lotteria? se tu vorresti sfidare la sorte, che non compro il biglietto, sfidare la sorte. Io ho vinto per tre volte di fila 5 euro. Hai visto? Vi raccolto un piccolo aneddoto sulla lotteria. Mio padre, che è venuto a mancare anni fa, per tutta la sua vita, che sono stati in circa 56 anni, una cosa del genere, per 56 anni ha comprato i bigliettini della lotteria, i bigliettini del Totocalcio, si giocava una colonnina al Totocalcio, e non ha mai vinto. Una volta, in un concorso di un bar, ha preso un bigliettino a caso e ha vinto. Gli hanno regalato un uovo di cioccolato, alto 1,10 m. Per la felicità l'ho messo dentro la sua campagnola dei carabinieri, perché lui faceva il maresciallo dei carabinieri. Va dal negozio alla caserma, lascia la macchina fuori, contento di farla vedere a tutti, il caldo gli ha sciolto l'uovo, l'hanno trovato sui tappetini. No. No. L'unica volta che ha vinto ha trovato il cioccolato spalmato sui tappetini della campagnola. Guarda, ok, una, tutto. Una storia da Tim Burton. Una cosa in cui... Numero 6. Il matematico che per primo teorizzò l'idea di infinito morì in un ospedale psichiatrico. Quando troppo vuoi. Giustamente, il cervello ha una limitazione, cioè non arriva all'infinito. Non si va oltre. Numero 5. I fumetti di Paperino sono censurati in Finlandia perché lui non indossa i pantaloni. È vero, non indossi i pantaloni, ma anche Kiko qua. Anche Paperina. Anche Paperone. Fa vedere le penne di fuori, fa vedere. Ma ci rendiamo conto. Pensa a Pluto. Scusa, io ho un'amica finlandese che lo conosce, Paperino, anzi. Ma c'è tutte le patrie. Ma c'è, Paperino c'è. O lo importando dall'Italia oppure sarà pezzetto. Scusa, Bacco. Non penso. Ma in Finlandia le papere sono vestite. Cioè, è bellissima la domanda al contrario, effettivamente ha ragione. Ma idealizzare... censuriamo le no, papere finlandesi. Perché Paperino è rappresentato in maniera umanizzata, capisci, umanoide, quindi comunque là diventa una cosa scandalosa. Cosa dico di perdonami, Pluto? Non sapevo. Perché Pluto è un cane, però è un cane idealizzato. Paperino non ha le mani, ha le penne. No. Al posto dei piedi, no? Non ha le mani, ha le penne, sono penne. Al posto delle zampe, ha le zampe da papera. È solo una papera messa in piedi che si muove, cioè il vestitino. E parla anche da papera. E parla pure da papera. Sì, ragazzi, ma guida. Quando parla, non si capisce un cavolo. Ma guida un'auto, ha dei nipoti, ha un conto in banca, tra l'altro... No, non ha un conto in banca, Paperino. Anzi, più che... povero che disperato. Ma allo zio che è... Al contrario di suo cugino, che invece... Però Pippo i pantaloni ce li ha. Pippo i pantaloni ce l'ha. Anche tu volevi invece... Sì. Appunto, Paperino ha avuto questa... Sarà un premiale. Paperino c'ha lo censore. Quando... come fanno a censurarlo? Cioè, gli mettono proprio il quadratino. Gli mettono il gonnellino scozzese. Gli mettono il gonnellino di pelle di renna. Paperino è segnalato come enta in Finlandia. Invece di numero... qua urla Perkele. Numero 4, è impossibile deglutire e respirare allo stesso momento. E vedi, tutte le persone cominciano a fare. Perché? Provateci, ragazzi. No. Perché? No, ci hanno già provato. L'impianto di respirazione è nella stessa conduttura dell'impianto deglutazione. Esofago. C'è una valvola che si muove da una parte o dall'altra, cioè ti dà la possibilità di respirare oppure si chiude e dà la possibilità di deglutire, quindi non puoi fare due cose insieme. Ma al numero 3 non ci può andare. C'è la prima prova e mi ha fatto molto male, tra l'altro. Sì, infatti, quando mi ha fatto il riso e mi si è bloccato tutto un po'. Ok. E poi ho chiesto a lei di prendermi a pugno per farmi respirare, e lei non ce l'ha fatta. Al poi numero 3, ma ha ammazzato il ragazzi. Al numero 3, mele, patate e cipolle hanno lo stesso sapore se vengono mangiate con il naso tappato. Probabilmente. Io non l'ho mai provato. Però no, perché patate crude non le mangio. Credo. No, saranno comunque mele. Mele, patate e cipolle. Magari mele e patate ci posso credere, ma cipolle Non è detto, alla fine non lo sappiamo, l'abbiamo mai la composizione chimica forse è la stessa e ci stanno delle sostanze volatili che sono diverse, sì, può darsi. Io ragazzi, so per certo che se mangiate lo zucchero mettendolo al centro della lingua, hanno un sapore comune che però è diverso. E lo deglutite, non sentite banda, che è zuccherato. Perché comunque viene confuso. Perché ci sta una zona particolare, come se metti il limone, sì, ad esempio con la punta della lingua, lo senti? Se lo metti tipo qua dietro, ma non quando lo era senti. Ma quando era freddore sei congestionato, è diverso. Comunque, per riprendervi da questa cosa, numero 2, il coleottero ha lo stesso sapore di una mela. Se volete grazie, provare, abbiamo un coleottero di là e lo possiamo servire. Vi ringrazio, la do per certo. Ma è transitiva, se ci tappiamo il naso e ci mangiamo un coleottero, non saprà di cipolla. Sarà come una cipolla. Andiamo via nella Bear Grylls. Mamma mia, no, per favore, grazie, non mi interessa il coleottero. Ragazzi, al numero 1 delle cose che non sapevi, adesso sai, un grande esperimento. Il 33% della popolazione mondiale non può schioccare le dita. Vai, vai, io sì, io sì. Com'era la cosa? Non riesco. E basta che poi dobbiamo pagare i diritti e la radio. Ragazzi, questa era la classifica delle 50 cose che non sapevi. Noi abbiamo fatto le prime 25 per le prossime. Aspettiamo la prossima puntata. Ah, ecco già... perché ne fa 25, perché sarebbero 50, però poi no, perché già così abbiamo messo su mezz'ora di delirio, quindi questa parte va bene così. www.tbac.it, cliccate la cena dei regini, commentate queste cose, suggeritene altre. Adesso passiamo allo spazio. Ma una domanda musicale. Mi hanno mai suggerito? Sì, sì, cioè, certo. A te è mai venuta l'idea di fare queste, tra queste cose, sì, che uno non sa? Quella dell'Australia che aveva chiesto le cose di Andrea. Ti ho chiesto io. La domanda deve andare a vedere le patrie sulla televisione, va bene. Sì, sì, c'è un contatto, c'è una chioccia del back.it a cui possono scrivere e loro possono comunque intervenire comunicare alla trasmissione e comunicare, ovviamente. Ragazzi, adesso lo spazio musicale, devo solo trovare il nome The Long Now in Arrows. I have rumors of your decline. E ragazzi, anche questa volta la cena dei reggini è andata anche questa volta. Filippo che è stato con noi, e quindi abbiamo anche questa volta ce ne torniamo a casa, riprendiamo le nostre cose. E anche questa volta? Anche questa volta. Anche questa volta. Anche questa volta. Il finale classico contiene questa volta. Volta. Volta. A posto? Una volta ogiva oppure. No, una volta a botte, molto disimpegnato. Perché ho detto ogiva? Ragazzi, un saluto a tutti, veniteci a visitare www.back.it, cliccate la cena regini e diteci tutto quello che vi passa per la mente, perché dovreste venire ospiti anche voi, come questa sera è venuto ospite Filippo, alla cena dei regini. Un saluto a tutti e ciao! Tiravi su!